Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune settimane fa è passata attraverso i giornali, i media, le radio, le TV, internet. Io stesso ne ho scritto sul Sole diffusamente, chi più ne ha più ne metta, la notizia dello scioglimento per infiltrazione di 'ndrangheta del Consiglio Comunale di Bordighera. Ragazzi, stiamo parlando di Bordighera, c'è una cittadina di 10.000 abitanti, la Riviera delle Palme, conosciuta in tutto il mondo per il suo turismo balneare, che sarebbe infiltrata dalla 'ndrangheta. È il secondo comune al nord che viene sciolto per mafia. Il primo fu Bardonecchia nel 1995, ci troviamo quindi in Piemonte. Per chi avesse quindi ancora qualche remora a riconoscere la presenza diffusa e pervasiva delle mafie anche al nord, eccolo servito con questa ennesima testimonianza. Noi però di Bordighera ne vogliamo parlare, vogliamo continuare a parlarne, come abbiamo già fatto nel passato per la provincia di Imperia, con Cristian Abbondanza, che è il presidente dell'associazione Casa della Legalità, il cui sito è esattamente uguale al nome, quindi casadellalegalità.org, andate e lo consultate se volete, perché è pieno di documentazione e materiale ricchissimo. Buongiorno Abbondanza. Buongiorno a voi. Allora, c'era ancora chi diceva che in Liguria e nell'Imperese la mafia non era presente. Che cosa svela questo scioglimento per mafia disposto dal governo su richiesta del ministro dell'Interno Roberto Maroni? Svela quello che, diciamo, i reparti investigativi e i magistrati della Procura Nazionale Antimafia dicono da anni e hanno dimostrato con documenti e sui fatti che sono avvenuti nel ponente ligure, in questo caso a Bordighera. Svelano che le mafie hanno colonizzato alla Liguria come porta verso il nord e delle colonizzazioni del nord. E in questa colonizzazione ogni piccolo comune può essere fondamentale per le mafie. È una piccola tappa di queste tessere che si incastrano in questo mosaico. Esattamente, la cosa drammatica è che ancora oggi, dopo lo scioglimento che è stato richiesto, ricordiamo, dai carabinieri un anno fa, l'estate scorsa, ancora qualcuno nega che la mafia ci sia. Ecco, io sono rimasto colpito da una cosa che ovviamente ne prendo atto in maniera doverosa, ma mi ha colpito. C'è il sindaco di Bordighera Bosio, a me non interessa entrare nel colore politico, non mi interessa assolutamente nulla, però ha detto: voglio prima capire, prima di esprimermi, voglio capire. Ma che cosa resta da capire, secondo lei, Abbondanza? Assolutamente nulla, perché in quel comune il condizionamento dell'andrangheta era totale. Avevano con i fratelli Pellegrino, il clan dei Pellegrino, il monopolio di tutti i lavori pubblici, dai rifacimenti delle spiagge a quelli stradali, a costruzioni, via discorrendo. Avevano poi l'infiltrazione anche dal punto di vista dell'attività coperta dalle famose autorizzazioni e licenze del comune. Una di queste era ad esempio un night dove veniva tranquillamente effettuato lo sfruttamento della prostituzione. Ma la cosa inquietante che diciamo da anni, ma adesso ci sono le prove, che l'infiltrazione non è solo sul livello politico ma anche sul livello dei funzionari comunali. Anche perché i politici passano, i dirigenti restano. Esattamente, e non dimentichiamoci che tra l'altro nella stessa relazione dei carabinieri su Bordighera videro già alcuni passaggi che portavano a Ventimiglia, l'altro comune. Ecco, ma io proprio lì volevo arrivare, cioè forse i nostri radioascoltatori non sanno che anche Ventimiglia, ripeto Ventimiglia, stiamo parlando delle perle del nostro turismo, potrebbe subire la stessa sorte. Ci racconti qualcosa su Ventimiglia, Abbondanza? Ventimiglia intanto è un comune sotto un devastante conflitto di interessi, in quanto il sindaco ha nominato direttore generale del comune il suo commercialista, che poi è anche il commercialista delle principali attività che vengono svolte sul territorio di Ventimiglia. E dopodiché a Ventimiglia vi è un caso eclatante, che è quello di Vincenzo Moio. Vincenzo Moio è per 2 anni vice sindaco di Scullino e ora consigliere comunale sempre a Ventimiglia, viene indicato nell'ordinanza al crimine della DDA di Reggio Calabria di Milano come affiliato all'andrangheta. Ma non basta, se c'è un politico direttamente affiliato, secondo la DDA, nel comune di Ventimiglia, la relazione dei carabinieri mette in evidenza che ad esempio l'ufficio licenza del comune vede la presenza del figlio di un esponente apicale, secondo anche la procura di Sanremo, della cosca dei Pellegrino, che lavora all'ufficio licenza del comune. Insomma, come direbbe un noto musicista, toda gioia, toda bellezza. Esattamente, cioè la cosa impressionante è che a Bordighera andavano a minacciare i Barillaro Pellegrino per avere la licenza, quindi richiamavano all'ordine gli assessori eletti grazie ai loro voti, a Ventimiglia non hanno bisogno, ecco, perché all'ufficio licenze c'è già chi di dovere. Allora, io ringrazio Cristian Abbondanza, presidente della Casa della Legalità, una onlus, il sito esattamente lo stesso, seguito da org, casadellalegalità.org. Torneremo purtroppo a interessarci di Imperi e della sua provincia. Ringrazio in regia Roberto Scaltritti, in studio Laura Faggin. Vi ricordo la nostra mail sottotiro@radio24.it, il mio blog per approfondire queste tematiche, ivi inclusa Bordighera, è Guardie o Ladri sull'homepage del Sole 24 Ore. Da Roberto Gallullo una buona giornata.